Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Edoardo Lavezzari in redazione che sta lavorando febbrilmente, Gianmarco Ferronato in regia. Oggi ragazzi è un puntatone perché sta succedendo di tutto. In questo giovedì 12 luglio 14.05 siamo insieme fino alle 15.30 e cercheremo di raccontarvi tutto quello che sta succedendo sull'asse Torino-Milano attorno a Leonardo Bonucci, perché sono ore caldissime. La Juve sta ascoltando la proposta, la prima proposta del Milan, e noi vi daremo i numeri e proveremo a raccontarvi da qui alle 15.30 anche qualcosa, insomma, su perché quello che doveva essere il simbolo della nuova Juventus, parole di Allegri, può trasferirsi al Milan. A proposito, Allegri un paio di settimane fa a Paolo Condò su Sky. Poi dopo due giorni Leo era rientrato, perché Leo è un giocatore importante, un giocatore straordinario. Soprattutto è un giocatore che deve capire che è il futuro leader dello spogliatoio della Juventus. Questo Allegri, sono passate due settimane e Bonucci potrebbe trasferirsi incredibilmente al Milan, tra l'altro nelle prossime 48 ore. Allora, tutti i nostri contatti, mentre saluto Paolo Aghemo, collega di Sky Sport, che è già in collegamento con noi. Ciao Paolo. Ciao Giovanni, buongiorno a te e agli ascoltatori. Grazie per la convocazione. L'assenza di Bonucci a Vinovo oggi. Ma difatti per questo ti abbiamo convocato, che abbiamo bisogno di capire. Allora, 800 24 00 24, chiamatevi, prenotate, intervenite fino alle 15.30. Se siete tifosi della Juve, voglio anche sapere come considerate Bonucci, se usate la parola traditore o no. 349-238-6666, sms, whatsapp. Siamo anche in video sulla pagina Facebook di Tutti Convocati, quindi per favore venite a vederci lì se proprio non avete una radio a disposizione. Allora Paolo Aghemo, che cosa sta succedendo intorno a Bonucci? Perché improvvisamente c'è questa accelerazione e c'è l'idea concreta che possa diventare un giocatore del Milan? Ma guarda, sta succedendo intanto, per quanto riguarda la cronaca, che Bonucci questa mattina si è presentato regolarmente alla convocazione da parte della Juventus, perché oggi riprendeva una parte del gruppo dei nazionali a lavorare, quindi visite al Jay Medical, e ha trovato tanti tifosi fuori ad aspettare, non lui solo ma anche gli altri giocatori. Però è chiaro che l'attenzione si è focalizzata su di lui, perché poi questa situazione impatta un po' nei social, nei web, tra i tifosi della Juventus se ne discute moltissimo, e alcuni tifosi della Juve gli hanno detto: mi raccomando, non ci lasciare, non te ne andare via. Lui dopo questa frase stava in realtà entrando in macchina, dunque non ha risposto e ha lasciato il Jay Medical ed è tornato ed è andato verso Vinovo per il primo allenamento. E ha mantenuto di fatto il silenzio che lo contraddistingue da Cardiff. Sì, il silenzio che lo contraddistingue sul suo futuro, E bisogna dire che un altro motivo che ha scatenato un po' il panico tra i tifosi della Juventus, che hanno collegato questo evidentemente alle mosse del Milan, è questo tweet che Bonucci ha fatto di ripresa della stagione, in cui scrive Ready to Start con la sua immagine, e nei vari hashtag non ce n'è uno che faccia riferimento alla Juventus, contrariamente a quanto ha sempre fatto, e dunque anche questo, cioè, fino alla fine e tutti gli altri hashtag che l'hanno sempre accompagnato. Perché cosa sta succedendo? Per i cultori dei social si fa anche così il mercato, leggendo tra le righe di queste cose. Quello fa parte anche, penso, del momento, delle emozioni che in quel momento si provano, di cosa si passa per la testa, e probabilmente in quel momento Bonucci non aveva voglia, chi magari gestisce insieme a lui social, non aveva voglia di mettere un riferimento alla Juve, non era il caso. Ma diremmo non era il caso perché nelle stesse ore il suo agente Luce, questa è la notizia insomma vera e propria, sta parlando ancora tra Milan e Juventus, perché sta vagliando la possibilità di un trasferimento clamoroso. Io direi però, guarda, clamoroso non tanto per il fatto in sé, cioè che Bonucci potesse lasciare la Juventus, come dici bene tu, dopo Cardiff, era comunque un'eventualità che noi stessi, seppur in modo remoto, perché Bonucci è un leader di questa squadra, una colonna di questa squadra ed è un leader soprattutto riconosciuto dall'ambiente, dalla piazza, dal presidente Andrea Agnelli. Ti ricorderai l'anno scorso il rinnovo del contratto, Bonucci presentato da Andrea Agnelli in conferenza stampa con Marotta. Questo è un onore che si riserva solo alla vecchia guardia, sì, della Juventus, un predestinato, non ancora vecchia, sì, guardia, ma futura vecchia guardia. Però. Insomma, 7 stagioni alla Juventus, possiamo definirlo uno dei vecchi dello spogliatoio. Ma io direi non tanto clamoroso il fatto della possibilità che si possa trasferire, anche se alla luce delle dichiarazioni che opportunamente hai fatto sentire tu di Condò, diventa un po' un contropiede, ma clamoroso perché va al Milan. Ora, il Milan, grandissima società, quindi grande big, dunque grande prospettive, grande futuro, ma nessuno aveva mai pensato al Milan, clamoroso in quel senso. Cioè, clamoroso perché segna anche un ritorno del Milan, forse in tempi più veloci di quanto tutti immaginassimo, ad altissimi livelli. Cioè, se poi la cerchiamo, c'è una frase che opportunamente mi è stata segnalata da Edoardo Lavezzari, della conferenza di presentazione di Montella, buttata lì a un certo punto: se quest'anno fossimo noi a indebolire la più forte del campionato, si parlava di Higuaín, di Pjanic, di quello che ha fatto l'anno scorso la Juventus, e lì per lì nessuno ci aveva fatto caso. Oggi quelle parole assumono tutto un altro significato, e anche questo è un tema, perché per mesi il Milan è stato accompagnato da grande scetticismo. Il fatto stesso che stia trattando Bonucci e che la Juve ascolti la proposta del Milan per Bonucci, poi magari non si metteranno d'accordo, ma il fatto stesso indica tantissime cose. Ti leggo uno spaccato dei messaggi che stanno arrivando, Paolo, poi dobbiamo parlare anche di Dani Alves. C'è un amico che scrive: allora, sono Michele, tifoso della Juve, se Bonucci va via non è un traditore, ma è la Juve che deve saper gestire queste situazioni. Poi un altro: Bonucci al Milan sarebbe perfetto per far maturare Romagnoli. Poi Lorenzo: Bonucci è imprescindibile, uno dei pochi da non vendere. Mentre un altro amico scrive: la Juve ha fatto questo ragionamento, Bonucci si può sostituire, Alessandro no. Quindi 40 milioni per un trentenne sono tanti. Poi c'è chi dà la colpa ad Allegri, che ha litigato l'inverno scorso con Bonucci. C'è chi dice: chi vince la Champions non ha Bonucci, quindi se ne vada. Come vedi, mi paiono poco compatti anche i tifosi della Juventus alla sola idea. Però mi pare che non ci sia nessuno di questi messaggi, che secondo me un po' rappresentano anche il tono generale, non ci sia mai quell'aggressività o quel pensiero negativo nei confronti di Bonucci. Ecco, secondo me questo non ci sarà, cioè se Bonucci dovesse andare al Milan non ci sarà nessun, pochi tifosi sicuramente magari, ma la maggioranza non lo accuserà certamente di tradimento. Ecco, questa è la mia sensazione, la mia impressione anche ascoltando i primi pareri. No, la cosa importante che secondo me vale come notizia è che si è mosso Lucci, il suo agente. Quindi significa che evidentemente l'idea non è che gli viene alla gente e basta, cioè gli agenti, i procuratori si confrontano, procuratori non più, sono agenti, si confrontano con i loro assistiti. Cioè, quindi evidentemente c'era in Bonucci anche una situazione per cui l'idea di poter lasciare la Juventus stava maturando o è maturata comunque in queste settimane, e post Cardiff fa maggior ragione. Sì, ma è una notizia anche che la Juventus ascolti la proposta. È una notizia, sì, anche che la Juventus ascolti la proposta. Tra l'altro, e così inserisco l'altro argomento, abbiamo un paio di minuti, non c'è tempo di far sentire Dani Alves, però insomma Dani Alves ieri non ha usato parole leggere sulla Juve, dice: vado al Paris Saint-Germain che è un club più organizzato, sereno e più vicino a vincere la Champions. Per carità, tutti i giocatori sono un po' paraculi, quando vanno via parlano male in linea di massima del posto che hanno lasciato. Però viene anche il sospetto che la scorsa stagione della Juventus sia stata, almeno all'interno, come gestione dello spogliatoio, è tutto molto più pesante di quanto già qualcosa si era capito, insomma di quanto emerso, Paolo. Sì, beh, qualche subbuglio c'è stato, qualche tensione c'è stata, beh, il caso Bonucci è lì a spiegarlo, insomma, durante il Palermo, il diverbio con Allegri, si sono mandati a quel paese, è andato in tribuna, sicuramente ci sono state delle tensioni, come spesso succede in tutti gli spogliatoi. È chiaro che alla Juventus questo viene amplificato di molto. Su Dani Alves, tenete presente che ha un carattere molto particolare nello spogliatoio della Juventus. Probabilmente è normale che abbia avuto in alcuni momenti delle tensioni o delle difficoltà. Io credo che quello faccia parte della situazione, dello spogliatoio, sia una cosa assolutamente normale. Che poi ci siano stati dei problemi, quello c'è problemi, delle tensioni, quello è verissimo, c'è voglia di rinnovarsi. Però volevo dirti, è vero che la Juve ascolta la proposta per Bonucci, ma la Juventus deve pensare all'altra alternativa, cioè a un giocatore che probabilmente vuole andare via. Io parlo sempre col condizionale, che vuole andare via, ecco, tenerselo in casa non avrebbe senso, a maggior ragione perché uno come Bonucci, cioè non è un giocatore della primavera, è un giocatore che significa tenersi in casa una bomba, avere uno che vorrà andare via come lui e tenerselo, quindi deve per forza comunque trovare una soluzione. E credo che l'idea di Sciglio, che magari è a margine di questa trattativa, ma che può in qualche modo centrare in futuro, ecco, sarebbe una buona soluzione per la Juventus nell'ottica del rinnovamento. E poi c'è Rugani, può fare Rugani da ponte, e poi c'è Caldara che magari rientra con un anno d'anticipo. Noi abbiamo 30 secondi, io ti chiedo in 30 secondi di dirmi cosa succede oggi a Schick, invece, che l'altro è il terzo tema che parla oggi di Juventus. Guarda, Schick ha fatto la prima parte dei test questa mattina, sono delle visite mediche infinite, ne aveva fatto 8 ore al J-Medical il 22 giugno, le sta facendo questa mattina a Roma, le continueranno nel pomeriggio. Sono approfondimenti molto delicati per la situazione naturalmente di salute di Schick, che non è assolutamente, non c'è assolutamente gravità, questo è bene dirlo, c'è problema per il giocatore. Sì, parliamo di salute, esatto, di idoneità sportiva. E non di rischi. Almeno non nell'immediato, esatto. Non nell'immediato, e comunque non è a rischio la salute del giocatore, però per avere un'idoneità sportiva a quel livello è chiaro che la Juventus vuole tutelarsi. Perché? Perché erano emersi dei piccoli problemi, dei segnali contrastanti nei primi test. Ecco perché questi approfondimenti. Se andassero bene, cercheremo di capirlo questa sera, ovviamente, se andassero bene non ci sarebbero problemi nel firmare il trasferimento. Viceversa, tanto tutti si augurano che vadano bene anche per il giocatore stesso. Quindi insomma il dialogo rimane aperto tra Juve e Sampdoria, anche se evidentemente da parte della Sampdoria, questo l'abbiamo capito ieri sera con l'uscita delle notizie, c'è anche un po' di dispiacere, di risentimento per come si sono messe le cose. Grazie Paolo. A te, grazie ancora. Buon grazie lavoro. Paolo. Ciao. Aghemo, che seguiremo nelle sue dirette da Torino su Sky Sport 24. Abbiamo il traffico, faccio in tempo a salutare Enzo, poi lo prendiamo dopo. Enzo. Salve, buongiorno. Eccoci, 800 24 0024. Un minuto di traffico, ripartiamo da Enzo. Tutti convocati. Convocati. Sta arrivando un diluvio di messaggi su Bonucci che forse passa al Milan. 800 24 0024, oppure 349 238 6666, i vostri messaggi SMS e WhatsApp, oppure su Facebook la pagina di Radio 24, di Tutti Convocati trattino Radio 24, per vederci anche in diretta. Enzo da Bari. Enzo, buongiorno. Io ho dovuto mentire per parlare con voi. Volevo parlare di MotoGP e comunque una battuta su Bonucci, è solo uno dei tanti. Anche perché per la MotoGP ti rimando domani, che abbiamo il nostro spazio dedicato. Prego Enzo. Date più spazio alla MotoGP. Ma guarda, più di noi non so quante radio lo facciano, però prego. Va bene. Bonucci è uno dei tanti, è solo una questione di soldi. Mi incuriosisce sapere molto Iannone, cosa sta accadendo, tutto qua. Iannone sta accadendo che va piano, e come tutti gli atleti, calciatori, piloti che vanno piano, a metà stagione si comincia a fare i conti sul futuro e forse si comincia anche a rivedere una scelta, quella della Suzuki, che non è stata la migliore possibile. Ma ti ripeto, carissimo Enzo, domani a partire dalle 15 Racing Team, quindi potremo soddisfare tutte le tue richieste, tutte le tue curiosità. Nicolò Ceccarini, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Esperto di calciomercato, quante chance ci sono che Bonucci vada al Milan? Molte, ci sono molte possibilità, non è detto che si faccia al 100%, però rispetto alla giornata di ieri in cui si è cominciato a intravedere qualcosa, mi sembra che si sia passati ai fatti, cioè la Juventus ha ricevuto un'offerta ufficiale del Milan, che io adesso non so quantificare nel totale, però sono soldi più il cartellino di Desidio, che comunque ha una buona valutazione in casa Milan. Credo che Bonucci abbia aperto alla cessione al Milan, abbia aperto la sua partenza dalla Juventus al Milan, poi sai, non credo che sarà un problema trovare l'accordo eventualmente tra Bonucci e il Milan, quantomeno è da trovare l'accordo tra la Juventus e il Milan. Milan che vorrebbe fare anche molto in fretta ad avere una risposta della Juve, cioè qui siamo veramente ore caldissime, lo diciamo spesso, no? Noi che ci occupiamo di calciomercato, però mai come in questa circostanza, anche per l'estate, ma soprattutto per il calciomercato, ora sono veramente bollenti. C'è da capire se davvero già in serata ci possono essere degli sviluppi. Nel frattempo ho capito, e qui vi do una piccola anticipazione, che la Juventus, sapendo di questo forte interesse concreto di questa trattativa cominciata dal Milan con l'offerta ufficiale, ha messo gli occhi su De Vrij e Manolas. Quindi sono De Vrij e Manolas sono due giocatori ora da tenere sotto controllo se dovesse partire Bonucci. Quindi quella potrebbe essere l'alternativa per la Juventus, più forse del rientro anticipato di Caldara, perché poi bisogna fare i conti con l'Atalanta e già per Spinazzola la Juventus ha scoperto che non è così facile. E poi ci sarebbe da ragionare allora sulla Roma, perché sì, oggi sui giornali De Vrij, Nastasic, poi avremo a proposito dopo le 15 Mangiante, parliamo di Francesco Totti, perché le prossime ore sono caldissime anche per l'ingresso di Totti in società. Viene difficile pensare che la Roma continui però a vendere. No, penso anch'io, guarda, non credo questo, però è vero anche che la Roma vuol prendere Nastasic, per cui comunque vuole prendere un posto che è stato liberato dall'affare Rudiger. Per me, io ti dico, sono quasi certo, perché la certezza assoluta non c'è nel calciomercato, che la Roma blinderà Nainggolan. Per me Nainggolan rinnoverà con la Roma e rinnoverà di un anno fino al 2021 con adeguamento economico, per cui il discorso Nainggolan, che credo sia in questo momento molto ricercato anche in ambito giallorosso da parte della tifoseria della Roma, io credo che Nainggolan abbia dimostrato di voler rimanere alla Roma, perché se avesse voluto prendere in considerazione altre offerte l'avrebbe già fatto, invece lui ha continuato, magari vorrebbe aver già finito questo contratto, cioè aver definito questo contratto, però non ha mai dato un segnale di voler lasciare la Roma, e questo secondo me è un grande vantaggio anche in chiave rinnovo. Poi è chiaro che se dovesse partire un difensore, se si arriva Nastasic e dovesse andare via Manolasso, sono d'accordo con te, ne devono prendere ancora un altro, ecco. Però ecco, De Vrij potrebbe essere magari il giocatore che, però anche lì, sai, anche lì trattare con lo Tito non è facile, perché De Vrij è un altro caso spinoso che ha il terzo dei casi spinosi. A proposito di Biglia, ogni ora che passa è più lontano dal Milan, è più vicino alla permanenza alla Lazio, o c'è ancora un margine ampio? Posto che poi se prende Bonucci c'è anche da capire quale dei potenziali nuovi acquisti taglia il Milan, perché il budget non è infinito. No, infatti il budget non è infinito, però per dirti, il Milan non più tardi di ieri, ma lo ha fatto praticamente in corso di tutta questa settimana, ha sempre tenuto vivi i contatti sia per Aubameyang con gli agenti, con gli intermediari, sia per Belotti, quindi il Milan non ha rinunciato a niente in questo momento, sa che può avere un budget anche dalle cessioni, perché noi pensiamo a quello che è stato stanziato a prescindere, ma non calcoliamo magari dentro questo contesto anche quelli che possono uscire, perché può uscire praticamente tutto il settore offensivo, Niang, la Padula, Bacca, può uscire Suso dal Milan, insomma ci sono anche altri giocatori che possono... Sì, qualcosa deve arrivare anche dalle cessioni. Esatto, qualcosa arriverà, però insomma Milan, se lo possiamo proprio definire, scatenato su tutti i fronti, perché stanno lavorando a 360 gradi. Il primo che riescono a cogliere, poi magari modificheranno la loro strategia. Tieni presente che loro, volendo in attacco, se non dovesse arrivare a quei due, a uno dei due, posso sempre pensare a Kalinic, che è un obiettivo, anche se la Fiorentina per ora non si è voluta sedere al tavolo. Che è un separato in casa, e quindi come tutti i separati in casa, inizio mercato è destinato ad andare via. Ti rubo ancora un minuto, velocissimo, ti leggo qualche domanda che ci sta arrivando attraverso Facebook, la pagina è Tutti Convocati trattino Radio 24. Sandra che scrive: non capisco la scelta di Bonucci, perché il Milan non è all'estero? Ma io credo, guarda, devo dirti la verità, la scelta di Bonucci secondo me, non lo so, bisognerebbe chiedergliela a lui, però che qualcosina si sia un po' modificato nel rapporto forse tra Bonucci e la Juventus, se ti ricordi bene quella famosa volta, no, anche della tribuna a Oporto dopo quello screzio che ci fu in campo con Allegri, qualcosina, non so se è una questione, diciamo così, che qualcosa è cambiato, oppure anche dopo 6 anni, dopo tante vittorie, senza voglia di cambiare, però secondo me è la volta che si arriva anche un'offerta italiana, penso che la potrebbe prendere, sì, il direttore. E che anche la Juve la prende in considerazione. Poi c'è Irza che chiede perché l'Inter fa parlare di tanti giocatori e poi non concretizza. Dopo parleremo, dopo le 14.30 sì, abbiamo l'approfondimento con Riccardo Ferri. Credo che al momento la cosa più concreta sia D'Albert. Anche se per esempio proprio pochi minuti fa ho fatto un aggiornamento sull'Inter, non molla l'Inter, quindi la cosa è complicata. Loro spererebbero di farla entro martedì prossimo quando partono, ma per la tournée, però io credo che sia dura riuscire a farla. Però alla fine D'Albert sarà un giocatore dell'Inter, questo sì, però non so la tempistica. Grazie Nicolò. Grazie a voi, buona giornata a tutti, un abbraccio. Ciao. Grazie a Nicolò Ceccarini. Allora, intanto Pallotta è sbarcato a Roma e dopo la borsa vi diamo le sue parole, il suo aggiornamento. Dopo le 15 con Angelo Mangiante di Sky, vi raccontiamo tutto. Saluto Alessandro Allara, direttore betting di SNAI, perché adesso diamo le quote del campionato. Ciao Alessandro. Eccoci, buongiorno, ciao. Prima però ci pigliamo Mirko da Treviso. Mirko. Ciao, ciao, ciao. Vai. Oh, finalmente sono riuscito a prendere linea. Allora, no, per quanto riguarda il discorso Bonucci, diciamo che per me Bonucci comunque è una scelta un po'... è assolutamente un'ottima scelta quella sua, perché lui ormai alla Juve non poteva più stare. Cioè ormai il Milan è uno stimolo nuovo. Adesso come adesso non ci sono più bandiere, tipo Totti, Del Piero, non ci sono più, quindi che vadano alla Juve e poi passano al Milan, adesso è una cosa abbastanza normale, che forse qualche anno fa non succedeva. Insomma, sì, la cosa incredibile, Mirko, e giro anche la domanda ad Alessandro Allara, è che se il Milan si può permettere di trattare Bonucci, significa che non abbiamo capito tutto negli ultimi mesi sulle potenzialità del nuovo Milan. Però so che tu sei anche grande tifoso della Juventus e quindi vorrei sapere cosa ne pensi. No, ma allora distinguiamo un attimo i ruoli. Allora, intanto come bookmaker posso dire che sicuramente la nuova versione del Milan sta piacendo ai giocatori e parecchio, e non a caso la quota della vittoria del campionato è veramente impicchiata. In questo momento il Milan è addirittura il terzo favorito per la vittoria del campionato. Dietro Juventus e Napoli. Dietro Juventus e Napoli. Ricordo qualche settimana fa, chiaramente la Roma era ampiamente la terza favorita, il Milan era lì con l'Inter, quindi sicuramente la campagna acquisti sontuosa ha influenzato moltissimo i giocatori, che si stanno spostando quasi tutti sulla qualificazione in Champions per adesso, poi sulla vittoria del campionato vedremo. Sì, però è evidente che sta nascendo un Milan che facevamo fatica anche solo a immaginare un paio di mesi fa. Sicuramente. Io non so se i tifosi della Juve debbano prenderla come quella di Bonucci, se come l'evoluzione di un rapporto finito, se come un tradimento. Guarda, non lo so, io adesso qui mi metto invece il cappello del tifoso della Juve. Che non si è ancora ripreso da quello che ho capito. Ricordo sempre che dopo aver venduto Zidane qualunque giocatore è cedibile, e questa è la filosofia della Juve, l'ha sempre dimostrato. Evidentemente c'è una proposta sul piatto importante che magari prevede anche delle contropartite, che sono una sicuramente decisiva, magari una contropartita che la Juve cercava. Oggi le nostre quote sono ancora più o meno lontane da questo affare. Da darlo addirittura d'arrivo. Cioè, se Bonucci va al Milan, a quanto scende la quota? Scudetto. Allora, intanto dico due cose: abbiamo anche la quota di Bonucci al Milan, cosa gli diamo? Quindi questa è una speciale e paga quattro volte la posta. Quattro volte la posta? Sì, quattro volte. È tanto, cioè, considerato il tam-tam di notizie che arrivano in questi minuti. La permanenza di Bonucci alla Juve in questo momento è ancora intorno a 1,35, perché vabbè, la scommessa è costruita in modo che la permanenza alla Juve sia una voce alta, comunque 1,35, poi c'è sempre il Chelsea a 5, potrebbe essere anche questo avvicinamento al Milan una sorta di, come dire, rilancio, asta verso il lido che era più probabile, cioè Antonio Conte, cioè quindi il... E quindi darlo via, darlo all'estero, darlo in Inghilterra. Sì. Senza dubbio, tornando alla seconda domanda, se la Juve dovesse vendere Bonucci e non prendere un rinforzo tipo Manolas o comunque di quel livello, io non avrei difficoltà a immaginare che la quota della Juve dal 70% che è in questo momento possa salire magari all'80%, 85%, non credo di più. Cioè, resta sempre la grande favorita, però resta sempre la grande favorita. Però racconteremo forse un campionato diverso da quello che immaginavamo. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro Allara. Allora, ci sono le parole di Pallotta appena sbarcato a Roma su Totti. C'è lo sconcerto dei tifosi dell'Inter, non solo di quelli della Juventus, perché ieri Ausilio ha detto: è impensabile prendere giocatori che guadagnino molto di più di quelli che abbiamo qui. E in tanti hanno detto: ma come, non dobbiamo prendere i top player? Ne parleremo con Riccardo Ferri dopo la borsa. Restiamo ancora sugli aggiornamenti, perché sono minuti caldissimi sulla questione Bonucci-Milan. 800 24 00 24, seguiteci anche su Facebook perché leggiamo anche da lì i vostri spunti. Ad avere i soldi di Inzaghi. chiudi. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Quest'estate il falco e il gabbiano non volano in vacanza. Rimaniamo con voi riproponendovi le puntate che voi ci avete chiesto di farvi riascoltare. Una figura controversa del Novecento italiano, Curzio Malaparte, in bilico tra fascismo e antifascismo. Il falco e il gabbiano vi aspetto oggi alle 15.30, naturalmente su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Convocati. Mi piacerebbe essere molto importanti ovviamente dentro e fuori del campo. Ho già tanti anni di esperienza in tanti campionati diversi e credo che possa essere un bel aiuto per anche i ragazzi più giovani, per dare una mano in qualunque cosa possa farlo. Seguo la cosa di Nainggolan come seguo quella di altri calciatori, ma come è giusto che sia, bisogna guardare in casa propria. Io ho già i miei di problemi e devo trovare soluzione a quei problemi, nel senso che devo cercare insieme agli altri che fanno parte dell'area tecnica di migliorare la nostra squadra e di stare attenti a tutto quello che il mercato offre. Ad oggi, visto che ho ascoltato anche le parole di Monchi, quelle più recenti, mi sembra della settimana passata, non mi sembra di aver mai capito che Nainggolan fosse mai stato messo sul mercato da parte della Roma, quindi è giusto rispettare questo tipo di decisione. È un giocatore sotto contratto di un'altra società, io sono direttore dell'Inter e mi occupo dell'Inter. Allora, 14:38 minuti, l'offerta per Bonucci del Milan dovrebbe essere 30 milioni più Desciglio, la richiesta della Juventus 35 più Desciglio. Questa è l'ultima ora di Sky. Saluto Riccardo Ferri. Ciao Riccardo. Ciao, buon pomeriggio. Io non so se tu, come tanti tifosi dell'Inter, sei un po' perplesso davanti all'attività dei cugini e al mercato dell'Inter che, almeno a livello di grandi nomi, fa un po' fatica a decollare. No, per quanto riguarda il Milan non mi sorprende, stanno cercando chiaramente un giocatore, un centrale di altissimo spessore, quindi hanno capito che Bonucci potrebbe essere una possibilità. Quello che mi risultava strano è l'offerta dello scambio con Romagnoli, che vedo che chiaramente è tramontato. Sì, esatto, che lasciava un po' dei grandi dubbi. Per il resto il fatto che cerchi Bonucci non è sicuramente una cosa negativa, anzi vuol dire che la squadra chiaramente cerca anche pezzi di altissima qualità. Ha fatto un mercato scoppiettante, a mio avviso non ha comprato giocatori di altissima qualità, ma ovviamente ha trasformato la squadra, ha cambiato proprio il volto della squadra. Adesso il compito più difficile è quello di Montella, che deve cercare di assemblare un po' tutti i pezzi, cercare di creare sì lo spirito, senso d'appartenenza e via dicendo, ma poi ci sono anche dei meccanismi dal punto di vista tattico e tecnico che vanno provati e poi staremo a vedere. Però sono più aspettate che c'è qualche problema, adesso lo riagganciamo. Intanto Pallotta, che è sbarcato a Roma e nelle prossime ore ci sarà il primo incontro con Totti, ha detto: per ora non abbiamo deciso niente sul ruolo di Totti nel suo rientro in società. E poi su Nainggolan e Manolas ha detto: non vanno da nessuna parte. Poi leggo alcuni dei messaggi che sono arrivati: 349-238-6666. C'è chi chiede come giocherà il Milan. Io ho l'impressione che giocherà a tre se dovesse arrivare Bonucci, e questo risolve anche un problema di interpretazione del ruolo di Conti e Rodriguez, che sono esterni soprattutto offensivi. Abbiamo recuperato Riccardo Ferri. Qui invece vorrei chiedere che cosa. Intanto sono d'accordo con te, gioca stavi dicendo adesso. Gioca tre. Su Rodriguez e su Conti, che ovviamente giocando a tre hanno più possibilità di offendere e meno compiti difensivi, quindi secondo me ha un aspetto un po' più concreto la squadra. Oggi l'Inter è davanti o dietro al Milan? No, io credo che l'Inter in questo momento qua non ha nulla da invidiare al Milan, deve solamente trovare degli equilibri. L'equilibrio va trovato sulla fase difensiva in primis, che era il problema principale della scorsa stagione, quindi a mio avviso urge un centrale di livello difensivo, e poi sicuramente l'esterno sinistro. Mi sembra che siano su Dalbert, che è un giocatore che sa interpretare sia la fase bassa a sinistra che quella di centrocampo. È un giocatore d'utile, è un giocatore di qualità, non è un top player, ma indubbiamente è un giocatore che manca un po' lì sulla sinistra e che dia continuità, insomma, alle giocate dell'Inter, che nella scorsa stagione, insomma, questi erano i problemi principali. Poi l'arrivo di Borja Valero ha portato sicuramente grande equilibrio al centrocampo, un giocatore che mancava, ha delle qualità che mancavano al centrocampo dell'Inter. Sì, l'unico problema di Borja Valero è la distanza tra lui, che è un ottimo giocatore, e quello che hanno sognato i tifosi dell'Inter per mesi, che hanno sentito parlare di Verratti, di Strootman, di questi nomi qui, e magari possono provare un senso di delusione. Poi bisogna aspettare fine agosto, in realtà. Ma guarda, a volte si è rimasti delusi dai grandi nomi, quindi io aspetterei prima di essere delusi, perché a mio avviso Borja Valero ha le qualità per poter soddisfare veramente i tifosi dell'Inter. Non è un nome altisonante, ma un giocatore di qualità e quantità, e l'ha dimostrato nella Fiorentina e conosce il nostro campionato. Poi è chiaro che tutti si aspettano l'arrivo di un top player, di un giocatore che a centrocampo possa fare un po' la differenza, che possa mettersi magari dietro i cardi e che possa veramente fare quel ruolo che manca da un po' di anni nelle file dell'Inter. Quindi si parla chiaramente di Nainggolan, che è sicuramente in pole position sulle aspettative dei tifosi. Matic, giocatori di questo livello, ecco, i tifosi dell'Inter secondo me si aspettano giocatori di questo livello. Si aspetta che si risolva il problema di Perisic, perché indubbiamente si continua a tergiversare, non si capisce se il giocatore vuole rimanere o no, quindi è importante capire anche le intenzioni del giocatore. E qui sposo in toto la filosofia di Spalletti, che dice: voglio solo giocatori che abbiano un senso d'appartenenza. In questo momento Perisic non sembra. Però Riccardo, ti faccio sentire Icardi ieri a Mediaset Premium, perché poi da giocatore che per l'Inter è stato una bandiera, voglio chiederti che riflessione fai. Questo Icardi ieri su Perisic. No, sinceramente sono cose che non si parlano dentro lo spogliatoio, e Perisic deve guardare per sé, se lui è contento qua deve restare qua, e chi non è contento, come ben ha detto il mister, deve andare via. Penso che lui deve fare pensare a se stesso e deve essere contento lui. La mia riflessione, Riccardo, è che un capitano di una squadra su un caso delicato di mercato non debba parlare così. Bravo, io sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, intanto è successo anche in passato, quando si giocava, che c'erano giocatori che tentennavano ed era lo spogliatore, erano i giocatori, diciamo, leader dello spogliatoio, che andavano dallo stesso giocatore per sentire un po' il polso della situazione. Cioè non è che ognuno può fare quello che vuole, certo ognuno fa quello che vuole quando a livello contrattuale va a decidere quanto vuole e quanto pretende, ma per quanto riguarda invece tutti gli altri aspetti, secondo me un giocatore come Icardi deve andare da Perisic e capire se Perisic ha l'intenzione di voler rimanere e di sposare in toto la causa dell'Inter, oppure pensa ad altro. In quel caso, se pensa ad altro, è giusto che Perisic se ne vada, come ha sottolineato anche lui. Ma in questo momento è importante che anche gli stessi giocatori, in questo caso il leader e in questo caso il capitano dell'Inter, vada da Perisic e ci parli per capire un attimino, per dare una mano all'allenatore, soprattutto dare una mano alla società e dare una mano alla squadra. C'è chi dice che abbiamo rotto le scatole, lasciate stare Icardi. Guardate, qui avete dei difensori di Icardi, e quindi avete bussato alla porta sbagliata, però quelle parole lì qualche riflessione la portano. Grazie Riccardo Ferri. Grazie a voi. Grazie a voi, Riccardo Ferri. Abbiamo un ulteriore sviluppo su questa clamorosa trattativa che sta accelerando in questi minuti per portare Bonucci dalla Juventus al Milan. Ve la diamo dopo il traffico. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Qualcuno dei messaggi che state postando sulla pagina Facebook, sotto la diretta video, la pagina Facebook è Tutti Convocati. C'è Paolo che chiede la situazione societaria del Genoa. Dopo le 15 arriva Marco Bellinazzo e parliamo del Genoa, che Preziosi ha venduto. E poi Emanuele, da tifoso milanista, sono contento del mercato, mi chiedo però da dove arrivino i soldi. Arrivano da una serie di prestiti, la situazione è chiara, il Milan sta rinforzando la squadra, ha l'assoluto bisogno già l'anno prossimo di entrare in Champions League. Poi, Mauro, in percentuale quanto sono fattibili Bonucci e Belotti al Milan? Bonucci molto, e lo stiamo raccontando. Io credo che Belotti sia un colpo impossibile per il Milan. E poi Pierfrancesco, con il possibile arrivo di Bonucci il Milan giocherebbe con il 3-5-2? Io credo di sì. 3-5-1-1 o 3-4-3 se resta Suso, però credo sicuramente con la difesa 3. Ma dopo le 15 continueremo a parlarne, perché continueremo a tenervi aggiornati su questa che è la notizia bomba, non del giorno ma della settimana e forse di questo primo mese di calciomercato. 800 24 00 24, Felice. Ciao, buongiorno. Ascolti, io so per certo che Bonucci va via, è un po' per riallacciarsi alla finale di Cardiff, perché so che davvero c'è stato un battibecco negli spogliatoi, ma non alla fine della partita, ma nell'intervallo. Sì, che poi il retroscena è venuto fuori, Barzagli, Bonucci, Higuain e Dybala. No, invece Barzagli, Dani Alves, che è andato via, e Dybala, che anche lui si era intromesso nella discussione tra Barzagli e Dani Alves, difendeva Barzagli. Bonucci è intervenuto dandogli uno schiaffo a Dybala. Felice, noi abbiamo raccolto, abbiamo anche letto, Massimiliano Nerozzi sulla stampa ha scritto in maniera abbastanza chiara la ricostruzione dei fatti nello spogliatoio di Cardiff. Abbiamo raccolto anche le smentite della Juventus, la smentita di Marotti, la smentita di Allegri, la smentita di Agnelli nell'intervista di settimana scorsa a Tutto Sport. Però che il rapporto tra Bonucci e la Juve sia ai minimi storici l'abbiamo capito da qualche mese. A proposito, l'aggiornamento è che sulla proposta del Milan, 30 milioni più il cartellino di De Sciglio, la risposta sarebbe stato: Bonucci costa 40 milioni cash senza inserimenti di giocatori. Gianluca, dalla provincia di Chieti. Gianluca. Buon pomeriggio, complimenti per la trasmissione. Grazie, vai. Caso Bonucci, diciamo che da milanista sono stupito. Però dopo la finale di Istanbul, anche un'altra finale come Berlino insegna che tra la fine del primo tempo e del secondo qualcosa è successo. Sicuramente Bonucci ha cercato sempre di scavalcare Allegri in qualche situazione di partito. Oggi paga lui, perché la società Juve mette l'allenatore al primo posto. Bonucci ha quasi 30 anni e prima o poi doveva essere ceduto, era l'unico dei difensori che ha mercato e che ha un prezzo. Sì, io penso, Gianluca, che dal punto di vista tecnico e tattico Bonucci alla Juve servirebbe come, e quindi se va via le ragioni sono altre e sono da trovarsi nei rapporti tra lui e Allegri, lui e lo spogliatoio, e tra un certo logoramento che evidentemente lo stesso Bonucci ritiene irreversibile e la Juventus anche, se si siede al tavolo e ascolta le proposte del Milan. Aldo, la provincia di Treviso lo prendiamo dopo le 15, andiamo al Tour de France. Pier Augusto Staggi, ciao Pier. Buon pomeriggio, ciao. Oggi grande tappone pirenaico. Oggi si fa sicuramente sul serio, stanno andando fortissimo. Dico che c'è un gruppettino in avanscoperta di 12 corridori con il nostro Diego Ulissi, hanno circa 5 minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo Maglia Gialla, sta facendo l'andatura, scandisce il ritmo il Team Sky, quindi è chiaro che Froome non mira solo a controllare la corsa, ma probabilmente a farla, perché sta tenendo un'andatura piuttosto elevata. La partenza è stata pazzesca, ad oltre 50 km orari, prima che andasse via la fuga ci è voluta quasi un'ora e dieci, e quindi oggi una giornata di grande fatica. 6 salite, un arrivo in quota, il secondo a tutti gli effetti dopo la Planche des Belles Filles, e siamo tutti curiosi di vedere come Fabio Aru si presenterà a questo secondo grande appuntamento. Sì, perché oggi scopriamo se Aru ha davvero le carte per pensare di vincere il Tour. Io mi aspetto oggi di capire e di vedere che ha le carte in regola per rimanere lì. Io sono convinto che Froome attaccherà, cercherà di sistemare le cose prima, perché questa è la sua testa, è un po' la testa anche del Team Sky, di Bradford. Loro vogliono essere sicuri di poter portare a casa questo quarto Tour de France. E quindi io sarei molto contento questa sera, ma soprattutto domani sera, di avere Fabio secondo lì, senza neanche un secondo in più, o comunque pochi a pochi secondi, perché sono convinto, resto convinto, che questo Tour de France si giocherà sulle Alpi, nelle due tappe che prevedono il Galibier di Soane. Lì Fabio deve arrivarci con un distacco minimo, con pochi secondi, e con, soprattutto con delle grandi gambe, gambe che fino a questo momento sembrano esserci a tutti i difetti. Sì, e che l'hanno tenuto vicino a Froome, e che forse stanno anche innervosendo Froome, ed è una delle ragioni per cui forse oggi tenterà l'attacco per provare a scollarsi almeno parzialmente di dosso Aru. Guarda, lui non è che sta pensando solo a Aru, adesso con tutto, lui è sorpreso, dice di essere sorpreso da Fabio Aru, ma lui ha due corridori, e questo qua anche perché i dati sono caduti, e bisogna ricordare che ha perso dei diretti avversari, ha perso anche un compagno di squadra importante come Geraint Thomas, ma ha perso soprattutto Richie Porte, che lui ha sempre considerato il vero rivale. Ma adesso, oltre ad Aru, c'è Romain Bardet. Romain Bardet è anche un'ottima squadra, secondo me è quella più attrezzata insieme alla Sky, più forte anche della Astana, che purtroppo questa mattina è partito senza Dario Cataldo, frattura del polso, ma anche con Jacob Fuglsang, che in questo momento è quinto in classifica generale, palla ideale di Aru, una pedina in più che però potrebbe venire meno, perché anche lui ha due microfratture al polso e sta correndo con un tutore e non è al meglio della condizione. Certo che pedalare, si pedala in salita, si pedala soprattutto anche con le mani, con le braccia. Sì. È diventata una corsa di resistenza e di eliminazione a questo tour. I grandi giri sono sempre così, resistenza assoluta e recupero. Chi ha doti di resistenza e di recupero è un grande corridore per le corse d'etappe. E ha la possibilità di arrivare a Parigi sul podio. Grazie Piero Augusto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Che continueremo a sentire negli aggiornamenti per tutta la giornata sul tappone del Tour de France. Noi ci fermiamo, c'è il GR delle 15. Quando torniamo, ancora gli aggiornamenti sulla trattativa Bonucci. Andiamo a Roma per parlare di Totti. Viene Marco Bellinazzo e facciamo il punto sulla situazione di tante società. E poi parliamo anche del mercoledì nero delle stelle a Wimbledon. Siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Te vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Tutti convocati. Eccoci con il professor Marco Bellinazzo da Sole 24 Ore. Ciao Marco. Grazie per il titolo assolutamente immeritato. 800240024 per intervenire in diretta fino alle 15.30. 349-238-6666 per i vostri messaggi, sms e whatsapp. Là c'è la telecamera perché siamo in diretta, carissimo Marco, sulla pagina di Radio 24 e sulla pagina di Tutti Convocati trattino Radio 24. Quindi abbiamo ancora una bella mezz'oretta per parlare. Allora, aggiornamenti sulla vicenda Bonucci-Juventus-Milan. Il Milan ha presentato l'offerta, 30 milioni di euro più il cartellino di De Sciglio. La risposta della Juventus è stata: De Sciglio lo trattiamo a parte, 40 milioni cash e possiamo discutere. Tanti si chiedono com'è possibile che il Milan faccia un'operazione di questo genere, e io mi porto oltre. Evidentemente il Milan è qualcosa che abbiamo sbagliato a identificare e raccontare in questi mesi. Beh, l'abbiamo raccontato in un certo modo perché la trattativa per la cessione e il closing mille volte rimandato ha dato questa impressione, però nel momento in cui poi la chiusura dell'accordo con Fininvest c'è stata e soprattutto si è palesato a fianco di Leo Yong il fondo Elliott, che non è un socio, è un finanziatore, ma è una grande potenza economico-finanziaria globale, beh, a quel punto diciamo era secondo me non difficile attendersi questo, magari non proprio tutto quello che sta accadendo, perché effettivamente la dirigenza rossonera insomma è andata oltre qualsiasi immaginazione, però gran parte di quello che è stato fatto a mio avviso era immaginabile ed era una sua logica molto precisa. Cioè fanno in fretta perché devono arrivare subito al risultato. Beh, hanno bisogno, a differenza dell'Inter di Suning, che si è potuto permettere anche un anno magari senza Champions, come l'ultimo campionato, ecco, il Milan non può permetterselo, almeno questa proprietà, perché significherebbe automaticamente consegnare il Milan nelle mani di Elliott, che ha impegno la società. Poi Elliott la venderebbe evidentemente al miglior offerente. Ma nel caso di queste settimane la proprietà rossonera, l'agenzia rossonera hanno come dire diverse esigenze. Proviamo a leggerle in maniera semplice anche per chi ci sta ascoltando, insomma i tanti tifosi che stanno chiedendo come mai una società che faceva fatica insomma ad andare avanti ora va dalla Juve, e si prende il capitano del futuro, perché questo sta succedendo. Esattamente. Beh, innanzitutto il Milan ha una finestra temporale per quanto riguarda il fair play finanziario della UEFA, perché ora il Milan torna in Europa. La UEFA in ottobre inizia a monitorare il bilancio di quest'anno e i due precedenti. Il Milan è senz'altro fuori dai parametri, perché ha perso quasi 250 milioni in tre anni, quando il limite è 30 milioni. Però se il Milan fa una bella squadra e quando saranno emessi evidentemente i verdetti, a netto poi della possibilità di chiedere il voluntary agreement, quindi di ottenere ancora sanzioni più lievi, il Milan dovesse essere in corsa con le altre squadre italiane migliori per andare in Champions, che sono quattro posti, e con quella squadra che sta facendo insomma dovrebbe essere quasi, quasi scontato. In maniera concreta è evidente che la UEFA sarebbe meno severa, avrebbe un occhio di riguardo. C'è poi un altro piano, che è quello prettamente diciamo politico-finanziario, legato allo sviluppo del calcio in Cina, e quindi è evidente che nel momento in cui Li Yongyong si accredita come un presidente che riporta il Milan in auge in pochissimo tempo, è chiaro che potrà ottenere quelle aperture nel mercato cinese e dal governo di Pechino, che potranno permettere per esempio a Huarong o altre istituzioni finanziarie cinesi di appoggiare ancora più fortemente il progetto, anche perché a quel punto non credo che a Pechino farebbe piacere che poi il Milan, nel caso in cui invece le cose andassero male, passasse in mani americane. Certo. Quindi c'è anche questo aspetto geopolitico da valutare. Insomma, guardate quanti piani di lettura ci sono attorno alla notizia del giorno. Ti faccio sentire Urbano Cairo, che parla di Belotti, altro nome che viene accostato al Milan. Io ho un'idea, Cairo. Sarebbe per essere pronta una maxi offerta per Belotti da parte del Chelsea di 100 milioni. Guardi, non mi risulta, però siamo qua, nel senso che noi abbiamo fissato con lui una clausola rescissoria a 100 milioni, quindi qualora arrivassero offerte da 100 milioni dall'estero, non potrei dire nulla, se non il fatto che appunto se lui le accettasse io non potrei che accettare, però non ho notizie del genere, vediamo, stiamo a vedere. Allora, io penso che Belotti al Milan sia suggestione e non altro, anche se a questo punto non possiamo più escludere niente. Mi pare di capire tra le righe che se qualcuno porta un'offerta nemmeno di 100 milioni a Cairo si può parlare, perché insomma Beh, sai, è il classico atteggiamento di chi dice sono qui. Quando fissi una clausola rescissoria è evidente che ti metti nelle condizioni di dover accettare una evoluzione di quel tipo, cioè che il giocatore vada via, però lo fai diciamo ponendo un prezzo che ti renderà felice, perché credo che al di là diciamo del dispiacere sportivo che possa avere Cairo, sarebbe felice anche con qualche milione in meno. Ma sì, Cairo, ma sì, chiaramente anche a 90-80 insomma si può fare l'operazione, di meno non credo, perché credo che abbia investito molto su Belotti, e quindi da questo punto di vista attende. Non so se oggettivamente il Chelsea possa arrivare a fine 100 milioni per Belotti, però staremo a vedere. Insomma, questo mercato davvero ci sta sorprendendo giorno dopo giorno. Adesso parliamo rapidamente anche dell'Inter. Aldo da Treviso, Aldo. Sì, ciao. Sono un tifoso juventino. Due cose veloci su Bonucci. La prima cosa è che se Bonucci se ne vuole andare, la strada è libera. La seconda è che la Juve l'anno scorso ha rifiutato 60 milioni dal City, e dalle notizie che voi dite adesso accetterebbe 40 milioni per Bonucci. A me la cosa mi sembra assurda, In più vorrebbe dire che la Juve fa lo stesso errore che ha fatto nel 2006 vendendo i Vieira, Ibrahimovic all'Inter. Sì, cioè sono situazioni diverse, Aldo, evidentemente infatti, diverse. E poi infatti, sul fatto che oggi Bonucci vada in Italia magari prendendo meno, noi l'abbiamo accennato prima, poi ci sono magari anche ragioni personali dietro una scelta. Nicolò da Milano, Nicolò. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire su Bonucci e mi stavo proprio chiedendo perché la Juve dovrebbe dare Bonucci, cioè il miglior difensore che ha e probabilmente il secondo miglior difensore del mondo dopo Sergio Ramos, al Milan, che ormai è diventata una diretta concorrente per lo scudetto, perché ormai dopo 140 milioni il Milan non si può più nascondere, cioè deve lottare per lo scudetto. Perché Bonucci vuole andare via? E se alla fine il mercato è quello italiano e il Milan si presenta con un'offerta che è accettabile, Nicolò, Bonucci va al Milan. E questo è quanto, ma stupisce non tanto il fatto che la Juve venda Bonucci, stupisce l'idea che il Milan abbia la forza per fare anche dal punto di vista simbolico questa operazione. Saluto Angelo Mangiante da Sky. Ciao Angelo. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Stupisce, eh? Io credo faccia paura anche a Roma l'idea di un Milan che corre così. Sì, tra l'altro devo dirti c'era anche un po' di paura che l'eventuale cessione di Bonucci al Milan, e poi insomma adesso sono ore calde, molto calde, possa portare in qualche modo mano alla sala Juventus, però è venuto in qualche modo in aiuto poco fa, proprio una dichiarazione abbastanza secca, direi irremovibile, di Pallotta, che ha detto Manolas e Nainggolan non andranno da nessuna parte, sperando che non parli la stessa lingua di Monchi. Esatto, sperando per Rudiger, i tifosi della Roma, dico, su Rudiger, sul fatto che Roma non fosse un supermercato, su tutto quello che abbiamo visto all'inizio di questo mercato. Si trova con Totti Pallotta? Cioè siamo alla fine del ieri abbiamo celebrato la fine del tormentone Donnarumma. Oggi e domani potremmo celebrare la fine del tormentone Totti? Sì, nel senso era sceso proprio il freddo, nel senso si erano interrotte le comunicazioni da quel 28 maggio, da quella serata dell'addio di Totti veramente emozionante, commovente, perché lui si era messo alla finestra, voleva anche sbollire questa rabbia di non poter continuare, perché era palese il fatto che volesse giocare un altro anno. Ieri è stato un po' il primo vero passo della svolta, perché si è incontrato Totti il gran completo con la dirigenza, quindi con Monchi, con Baldissoni e Gandini. La strada, da quello che mi arriva, sembra essere spianata e oggi potrebbe essere la giornata, sai, quella della foto in cui il presidente si mette accanto alla leggenda. Certo, e fanno lo scatto che certifica l'inizio della nuova vita sportiva da dirigente di Francesco Totti. Ti rubo ancora 30 secondi invece per chiederti del futuro di Nainggolan, perché filtra che nel fine settimana, anche per la presenza di Pallotta, ci potrebbe essere finalmente questo rinnovo con aumento che Nainggolan aspetta da un anno e che di fatto chiuderebbe anche la porta all'Inter. Sì, perché rimane a mio avviso il grande oggetto del desiderio di Spalletti, che vede in Nainggolan proprio il grimaldello ideale per aprire qualsiasi difesa. La Roma ha maggior ragione, proprio perché lo sa, accontenterà nel giro di pochissimi giorni Nainggolan allungando un anno il contratto e dandogli questo aumento. Se poi basterà non so, però l'aumento, anche per evitare il mal di pancia del calciatore, sta per arrivare. Sì, grazie Angelo. A te, un abbraccio. Grazie Angelo Mangiante da Roma. Torno da Marco Bellinazzo. C'è chi chiede perché la Lazio, che è una società sana, prima deve vendere e poi comprare. Lì è una scelta del presidente Lotito, che fa mercato, come dire, sempre in autosufficienza, quindi con cessioni che vanno a finanziare gli acquisti e possibilmente sono guadagnandoci qualcosa. E poi, se i tifosi dell'Inter hanno ragione a essere un po' delusi, dopo aver respirato per mesi l'idea che la potenza di Suning rovesciasse sul mercato centinaia di milioni, vedono il Milan che si muove e l'Inter che in questo momento è ancora lontana da profili di primissimo livello. Sai, l'Inter aveva un problema, come dire, congiunturale, l'abbiamo raccontato, che era quello fino al 30 giugno di raggiungere il pareggio, è sotto monitoraggio ancora della UEFA, cosa che abbiamo detto il Milan non è. e di conseguenza deve muoversi con cautela. Questo non vuol dire appunto che non farà tutta una serie di operazioni, ma le deve fare con raziocinio, anche perché non ha la fretta che ha il Milan. Chiaramente i tifosi sì. è anche vero che prima poi la freccia ce l'hanno, viene, bene, perché, ce l'hanno, la perché stagione se il Milan essere... cresce, la Juve e il Napoli sono più forti, la Roma parte comunque con un cospicuo vantaggio, l'obiettivo è sempre quello, certo, di arrivare almeno a quarti. Il problema è appunto capire quanto poi la gestione temporale di queste operazioni sia dovuta a una precisa scelta strategica e quanto al fatto che magari sono stati individuati degli obiettivi, leggi Nainggolan, che si fa fatica a portare. Certo. Mertens, così parliamo del Napoli. No, devi sempre puntare, ma lo sappiamo che è difficile, si vede qua che hanno comprato di nuovo la Juve, sono tanti giocatori forti e tutti gli anni comprano sempre giocatori forti, noi dobbiamo fare il nostro lavoro e non dobbiamo guardare solo a noi, partita a partita, come abbiamo fatto gli ultimi 6 mesi, abbiamo fatto molto bene, siamo noi stata la squadra più forte e dobbiamo continuare su questo. Oh, il mercato del Napoli mi piace da impazzire. Non è vero che non ha investito e non sta investendo. Tenersi migliori è già una forma di investimento. Assolutamente. Penso che insomma, i semplici rinnovi di Insigne e Mertens costeranno al Napoli ingaggio e imposte quasi 19 milioni, 20 milioni su monte ingaggi. Insomma, quindi è un investimento incredibile. Non ha mai fatto investimenti di questo tipo De Laurentiis e di conseguenza è un segnale chiaro del fatto che tutto l'ambiente a partire dal presidente si siano compattati inseguendo un sogno, che le prestazioni, come ricordava Mertens, negli ultimi 6 mesi della squadra in qualche modo hanno rafforzato, no? Hanno comunque permesso di inseguirlo. E, detto questo, poi l'altra strada, quella di Giuntoli, un po' di sfoltire la rosa e di fare operazioni come quelle fatte l'anno scorso per il centrocampo con Zielinski, Diawara e Rog, cioè giovani di prospettiva, di talento che possono magari poi essere anche valorizzati successivamente. Sì, c'è mercato. Chi ci accusa di menarla con la storia del tenersi giocatori, che è un mercato da un mese, però è così, amico mio. Se il Napoli ci crede, io credo che il Napoli, anche stando fermo, resti per distacco la seconda forza di questo campionato e possa magari ambire a provare a vedere che cosa succede a casa della Juve. Allora, due domande veloci che arrivano dalle persone, dalla gente a casa. Il Genoa, se va al signor Segafredo, al secolo Massimo Zanetti? Beh, non è possibile in questo momento individuare l'acquirente di quello che sembra ormai un affare scontato, insomma, annunciato dal presidente Prezioso. Insomma, anche le settimane scorse si sapeva che una trattativa avanzata, rallentata soltanto dal fatto che Preziosi dovesse prima, diciamo, liquidare il suo socio di minoranza nella Giochi Preziosi, un altro cinese che per questa volta va via e non arriva, e poi sarà sistemata la questione societaria. Ma sui nomi davvero, insomma, c'è una ridda di indiscrezioni, insomma. Aspettiamo ancora qualche giorno e capiremo. Ok, poi l'altra è Zamparini. Ho letto oggi, 2 virgolette, mia moglie mi ha detto: se continui con il calcio ti lascio, ma non posso abbandonare. Beh, bellissima frase ed è giusto così. Non so cosa pensano di questa frase i palermitani. Insomma, è evidente che la pantomima che è andata in scena tra lui e Baccaglini, insomma, delegittimato un ambiente, soprattutto il lavoro fatto in questi anni, e comunque non è disprezzabile, perché comunque Zamparini e Palermo, insomma, hanno vissuto anni belli in quest'ultimo decennio in Serie A, sfiorando l'Europa con tanti giocatori importanti. Insomma, è una vicenda che speriamo, insomma, che trovi una conclusione degna di una piazza, insomma, che è una squadra che deve tornare in massima serie. Insomma, al momento molto negativo, insomma, il discorso, anche per una storia che ho raccontato di recente di un marchio venduto 3 volte in un giro che ha portato 70 milioni di plusvalenza. Insomma, nulla di illegale, ma questo ci fa capire che quando si ricorre a marchi ingegni finanziari, insomma, poi resta poco sul piano sportivo di quello che è accaduto in questi ultimi anni a Palermo. Intanto Zamparini ha però detto che, moglie o non moglie, lui sta costruendo una squadra per tornare in Serie A già l'anno prossimo. Grazie Marco Bellinazzo. Grazie a voi, a presto. Grazie Marco Bellinazzo. Parliamo di Wimbledon. Chiude con l'ace Sam Querrey, vince in 5-7, giocherà la prima semifinale slam tra due giorni, o contro Marin Cilic o contro Gilles Muller. Bravo Querrey, che ha vinto tre partite al quinto set in questo torneo. Murray ha ceduto di schianto dopo qualche difficoltà psicologica nei primi set, fisicamente non ha retto più. Jacopo Lo Monaco, commentatore di Eurosport. Ciao Jacopo. Buongiorno. Cos'è successo a Djokovic e Murray? Ieri c'è stata la caduta degli dèi a Wimbledon. Allora, partiamo da Murray. Murray paga l'inseguimento dello scorso anno alla prima posizione mondiale. Dal giugno del 2016 fino alla fine della stagione ha giocato 53 partite, vincendone 50 e coronando comunque questo inseguimento poi con la prima posizione mondiale, con l'oro olimpico, con la vittoria al Masters per la prima volta. Ha chiesto troppo al suo fisico e in questo 2017 sta pagando il conto. Detto questo, ha fatto bene, perché se vediamo quello che stanno facendo Federer e Nadal in questa stagione, se non fosse arrivato a fine 2016 alla prima posizione, secondo me non ci sarebbe mai arrivato. Per quanto riguarda Djokovic, invece, Djokovic inizialmente ha pagato il coronamento del sogno del Roland Garros 2016. Io avevo pensato che potesse ripartire proprio da questo Wimbledon, quindi di 12 mesi di crisi, sempre considerando di chi stiamo parlando, e riparte da Wimbledon forte di Agassi al suo fianco per l'intero torneo, dell'aggiunta anche di Mario Ancic. Per sua sfortuna il gomito non era d'accordo, è un gomito che ovviamente è una parte del corpo fondamentale per un giocatore di tennis e che addirittura potrebbe tenerlo fermo per il resto della stagione. Sì, ma c'è anche il sospetto che anche Murray, oltre Djokovic, possano comunque fermarsi. Ma vedendo anche quello che è accaduto appunto con Federer lo scorso anno, anche Nadal si fermò a ottobre, e se andiamo a vedere anche nel passato, Nadal si è fermato e poi è tornato forse anche più forte di prima. Forse il futuro è proprio questo, non inseguire quello che ti propone il calendario, ma programmarti a seconda di quello che ti dice il tuo fisico, perché da un certo punto di vista è meglio fermarsi e non giocare sei mesi e vincere magari uno slam appena torni, piuttosto che continuare a giocare. E se guardiamo i risultati di quest'anno di Djokovic, numero 6 nella race, Murray numero 8 nella race, che senso ha per loro, che sono giocatori di quel livello, fare una stagione da numero 6 o da numero 8 nella quale non hai chance di vincere un altro major? Sì, meglio diventare selettivi, anche se questo poi aprirebbe, non c'è il tempo per farlo adesso, tutta una riflessione su come si sta trasformando il tennis di altissimo livello, perché se cominciano i giocatori a scegliere in maniera selettiva così, e parliamo di giocatori di primissimo livello, andando magari a privilegiare lo slam piuttosto che tornei che sono comunque importanti per tradizione, per montepremi, per tutto quello che esprimono dal punto di vista tecnico, probabilmente anche chi fa i calendari qualche riflessione la deve fare. Abbiamo però un minuto con Jacopo Lo Monaco, perché oggi gli inglesi, l'hanno scritto anche su qualche prima pagina, hanno di fatto battezzato questo Wimbledon come apparecchiato per Roger, che un anno fa Wimbledon sembrava, non dico aver chiuso ad altissimo livello, ma quasi. Beh, proprio per quello che è accaduto ieri e anche per come abbia festeggiato il successo su Milos Raonic, si è avuta la sensazione che l'ostacolo duro l'abbia superato battendo Raonic in tre set, evitando un prolungamento di partita, perché il terzo, tutto sommato per le occasioni che ha avuto il canadese, poteva tranquillamente perderlo Federer, non solo per le palle break salvate ma anche per il 3-0, due mini break sotto al tie break. Ora, per chi invece ti fa contro Federer, non vuole che vinca per l'ottava volta Wimbledon, si può batterlo. L'unica stanza credo sia Marin Cilic, che in passato, nel momento in cui ha giocato al massimo, è stato ingiocabile anche per lo stesso Federer nella semifinale dello US Open del 2014, ma non solo, nel match dell'anno scorso di quarti a Wimbledon, è vero che Federer quest'anno non è il Federer dello scorso anno, comunque Cilic era avanti 2-7. Sì, ha dimostrato di avere le armi per fargli male, in pratica, Jacopo, questo. Però io non so quanti sono quelli contro Federer. Ciao Jacopo, grazie. Il 5%, grazie a voi. Il 5%, noi diamo spazio a tutti, anche a quel 5% lì. Abbiamo finito, ci fermiamo. Domani, dopo il GR delle 14, torna Carlo Genta. Un saluto e un ringraziamento a Giorgio De Luca, Edoardo Lavezzari, Gianmarco Ferronato. A domani alle 14. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Saluti!